Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. È rottura, il Gran Rabbinato di Israele ha interrotto a tempo indefinito le relazioni con il Vaticano. La Santa Sede esprime l'auspicio che il dialogo possa continuare. Il Papa esprime solidarietà agli ebrei contro il negazionismo. Di Pietro attacca Napolitano, è poco arbitro, il silenzio è mafioso e per questo dice non voglio rimanere in silenzio. Barack Obama apre a Teheran, il presidente iraniano replica, se vuole un cambiamento ritiri le sue truppe da tutto il mondo e non sostenga il regime sionista. Caso Eluana, via libera del distretto sanitario di Udine ad accogliere la donna in una delle sue strutture. Intanto il presidente della Corte Costituzionale Flick dice su questi temi serve una legge. Lo stupro di Guidonia, il ministro Frattini a Radio 24, i romeni scontino la pena nel loro paese. E con l'accusa di violenza sessuale è stato arrestato in Gran Bretagna il calciatore del Manchester City, Robinho. La Panini conquista il basket americano, le stelle dell'NBA sulle figurine dalla stagione 2009-2010. Una buona giornata da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. In primo piano ci sono i rapporti fra Vaticano e comunità ebraica, Simone. Sì, rapporti che sono diventati tesi dopo che il Papa ha revocato la scomunica ad alcuni vescovi lefevriani, fra cui il negazionista Richard Williamson. E oggi il rabbinato di Israele minaccia di rompere i rapporti con il Vaticano. Il giorno dopo le scuse dei lefevriani, scuse ritenute insufficienti da Israele, tanto che il Gran Rabbinato, la massima autorità ebraica, minaccia di rompere i rapporti con la Santa Sede, dall'udienza generale in Vaticano il Papa pronuncia parole forti su Shoah e negazionismo. Benedetto XVI inizia chiedendo ai lefevriani, ai quali precisa di aver revocato la scomunica come atto di paterna misericordia, di aderire ai principi conciliari. Auspico il sollecito impegno da parte loro di compiere gli ulteriori passi necessari per realizzare la piena comunione con la Chiesa, testimoniando così vera fedeltà e vero riconoscimento del Magistero e dell'autorità del Papa e del Concilio Vaticano II. Poi il pontefice esprime piena e indiscutibile solidarietà agli ebrei contro ogni oblio e negazionismo della Shoah. Auspico che la memoria della Shoah induca l'umanità a riflettere sulla imprevedibile potenza del male quando conquista il cuore dell'uomo. La Shoah sia per tutti monito contro l'oblio, contro la negazione o il riduzionismo. Parole in seguito alle quali il Vaticano auspica ora che il dialogo con il Rabbinato di Israele possa continuare. Maria Luisa Pezzali, GR24, il sole 24 ore. Dai rapporti tra le grandi religioni passiamo ai rapporti diplomatici. Eh sì, passiamo a quelli fra Stati Uniti e Iran, perché ieri Barack Obama ha teso la mano al mondo islamico, soprattutto all'Iran, dicendosi disponibile al dialogo con Teheran. Oggi però è arrivata la risposta del presidente iraniano Ahmadinejad. Nell'intervista ad Al Arabiya, rilasciata proprio mentre l'inviato per il Medio Oriente George Mitchell stava partendo per la prima missione diplomatica della nuova amministrazione, Barack Obama auspica una ripresa del negoziato tra israeliani e palestinesi, sostenendo il re saudita Abdullah per il suo impegno nella preparazione di un piano di pace. Dall'Iran oggi è arrivato il commento del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Teheran aspetta di vedere se quanto da lui promesso sarà un cambiamento vero o solo nelle parole e nei giochi politici, ha detto Ahmadinejad nel corso di un comizio. Il presidente iraniano si è poi autopromosso a supremo giudice per spedire all'inferno l'ex presidente americano George W. Bush. Andrà all'inferno perché i suoi sono stati la politica e il comportamento più sporchi e criminali negli ultimi 50 anni nel mondo, ha proclamato. E non poteva mancare dall'uomo che disse che Israele deve essere cancellato dalle mappe del globo un riferimento al grande nemico con richiesta di risarcimento agli americani. Se quello che il nuovo presidente vuole è un vero cambiamento, ha aggiunto Ahmadinejad, lo deve dimostrare mettendo fine al sostegno dell'illegale e falso regime sionista e risarcendo l'Iran per le interferenze americane degli ultimi 60 anni. Cristina Ballotelli, GR24, il sole 24 ore. Il commento di Marta Dassù, direttrice di Aspenia, la rivista dell'Aspen Institute. L'offerta di dialogo da parte di Obama, la risposta propagandistica di Ahmadinejad. Questo primo scambio era del tutto prevedibile anche nei toni e non cambierà la realtà. Stati Uniti ed Iran torneranno a parlarsi. Anzi, per essere onesti, si parlano già a livelli informali sull'Afghanistan e sull'Iraq. Obama vuole qualcosa di più. Vuole che, dopo 30 anni di chiusura dei rapporti diplomatici, un tentativo di svolta ci sia. E ha in testa tre obiettivi precisi. Primo, un accordo per stabilizzare l'Iraq, dopo che l'America si sarà ritirata. Il che significa l'assenso di Teheran a non forzare poi troppo l'equilibrio fra sciiti e sunniti, l'unico che garantirebbe un po' di stabilità. Secondo, una mano vera in Afghanistan, la guerra giusta di Obama, quella a cui è anche legato il destino della NATO. E terzo, un accordo sul nucleare che garantisca a Teheran energia civile ma non il passaggio della soglia, della famosa soglia militare. In cambio Obama è disposto a tendere la mano, come ha detto ad Al-Arabiya, ossia a riconoscere che l'Iran è una potenza regionale, ma senza una fretta particolare. Il dilemma vero per Obama è quando aprire. A giugno l'Iran avrà le elezioni presidenziali e l'America non ha nessun interesse a legittimare Ahmadinejad. Per ora quindi il dialogo ci sarà, ma a livelli più bassi. E riguarda proprio il presidente iraniano Ahmadinejad, una notizia curiosa e inaspettata. E ce la racconta il nostro Adib Fateh Ali. Sei di origine giudaica e hai cambiato il nome di famiglia all'anagrafe. È l'accusa bomba rivolta al presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad a 4 mesi dalle elezioni presidenziali. A sostenerla sul proprio sito web è il figlio dell'ex membro del potente Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, l'autorevole Ayatollah Abdel Qasem Ghazali, tuttora vicinissimo all'attuale presidente. Mehdi Ghazali, da anni fiero oppositore dell'amico di suo padre, sostiene che il cognome vero è Sporigian e, a sostegno della sua tesi, invita a consultare le note riportate dall'estratto di nascita della famiglia al comune di Aradan, dove è nato il nemico giurato di Israele. Adib Fateh Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. E veniamo al caso di Eluana Englaro, perché questa mattina il distretto sanitario di Udine ha dato parere favorevole alla domanda presentata dalla famiglia per il ricovero di Eluana in una delle strutture di sua competenza. Lo ha riferito il vice direttore generale della casa di riposo di Udine, appunto La Quiete, Luciano Cattivello, che ha dichiarato: questo non significa comunque che La Quiete abbia già dato il proprio via libera all'accoglienza di Eluana per l'attuazione della sentenza. Sentenza della Cassazione. Lo ricordiamo che dà il via libera all'interruzione dell'alimentazione e l'idratazione artificiali. Sul caso Eluana è intervenuto il presidente della Corte Costituzionale in diretta, Paola Cavadi. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Nel suo ultimo discorso, prima di lasciare la presidenza della Corte, Giovanni Maria Flick ha chiesto al Parlamento, a proposito del caso Englaro, di colmare un vuoto legislativo. Sentiamolo. Ho parlato di risposta tecnica, ma vorrei essere chiaro sul punto. L'auspicio è, se mi è consentito, ovviamente che simili tematiche, proprio perché coessenziali alla visione dei diritti fondamentali, non restino aspetti solo incidentalmente sfiorati dalla Corte, ma formino oggetto di chiare opzioni legislative. Per il Presidente della Consulta, la Costituzione è uno strumento sempre capace di adattarsi ai cambiamenti e alla nascita di nuovi diritti. Da qui il monito lanciato oggi alla politica e alle istituzioni perché si facciano guidare dai principi ancora vivi della Carta del 48. Flick ha perciò toccato moltissimi temi di attualità. Sul federalismo ha detto che quello fiscale è indilazionabile purché rispetti l'impianto solidaristico della Costituzione. E ancora sui diritti degli stranieri, sbagliato limitarli, specie se i migranti sono in possesso di un permesso di soggiorno. Sul tema caldo delle intercettazioni, Flick è convinto che sia tempo di sedersi a un tavolo per conciliare il diritto all'informazione con quello alla privacy. Infine, una curiosità, il Presidente ha rivelato ai giornalisti di non aver avuto ancora alcuna notizia dell'annunciato ricorso alla Corte da parte dell'ex Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Riccardo Villari. Da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Paola. Il presidente Flick parlava di diritti degli immigrati. Emirati, tra poco torneremo a parlarne con l'intervista a Franco Frattini sul tema dei rumeni in Italia, della possibilità di sospendere il trattato di Schengen. Ma ora andiamo in Calabria, Alessandra. Sì, andiamo in Calabria perché questa mattina è stata scoperta un'organizzazione di falsari. Sono 11 le organizzazioni dedite alla falsificazione di banconote, monete, valori bollati e documenti d'identità sgominate dai carabinieri di Reggio Calabria con l'operazione chiamata Giotto, condotta stamani in tutta Italia per l'esecuzione di 109 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le organizzazioni, secondo quanto è emerso dalle indagini che erano iniziate nel 2005, erano distinte l'una dall'altra, ma avevano costituito un vero e proprio cartello per la produzione e la capillare distribuzione di euro falsi su tutto il territorio nazionale, con diramazioni anche in Europa, soprattutto in Germania, Spagna e Lituania. Le indagini condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e del Comando Antifalsificazioni Monetarie di Roma sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ed hanno permesso di individuare gli assetti organizzativi e le gerarchie interne, i collegamenti, i modus operandi per la produzione, lo stoccaggio e l'immissione nella rete distributiva della valuta falsa, nonché i collegamenti con la criminalità organizzata, in particolar modo però non quella calabrese ma soprattutto quella campana. Filippo Velti, GR24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. The age of 35, giving them a lot of experience off the bench. Mo Williams. Oh, is he feeling it? 73-71 Cavaliers with a two. Chiama l'NBA, questi suoni li aveva riconosciuti. È da là che vengono, però parliamo di oltreoceano per parlare in realtà di un successo del Made in Italy, Alessandra. Sì, delle figurine Panini. Noi le abbiamo sempre collezionate per quanto riguarda i calciatori, ma anche per tanti altri personaggi, per esempio dei cartoni animati. Ora le figurine Panini porteranno le stelle del basket americano, e questo a partire dalla stagione 2009-2010, dunque un'iniziativa che arricchirà il portafoglio prodotti americano di Panini, di cui fanno parte High School Musical, Harry Potter, ma anche, per nominare quelli in campo sportivo, UEFA Euro e FIFA World Cup. E Simone, tu su questo argomento hai sentito Antonio Allegra, che è il direttore mercato della Panini. Sicuramente rientra in un'ottica di un processo di sviluppo e di investimento che il gruppo sta portando avanti ormai da diverso tempo, quindi noi ci stiamo espandendo in termini di prodotti e di mercati, e una cosa di questo tipo evidentemente è importante su entrambi gli assi, quindi sviluppo di nuovi prodotti, nuovi concept. Quindi se parliamo del mercato italiano, quello più vicino a noi, è un accordo che in qualche maniera va a arricchire una prodotti affiancando prima fra tutti la collezione calciatori, che devo dire continua fortunatamente a darci molte soddisfazioni, quest'anno in particolare sta avendo molto molto successo, però è giusto espandere la gamma prodotti. Non avete un'idea di quanto possa valere questo mercato? Ma è un mercato sicuramente importante, stiamo parlando di, come ordine di grandezza, di qualche decina di milioni di euro all'anno sul calcio mondiale. È la prima volta che l'NBA fa una cosa di questo genere o siete subentrati a qualcuno? Mi risulta che sia la prima volta che NBA decide di dare un'esclusiva, quindi di fatto c'erano già licenze nel settore collezionabile. La scelta forte è stata di assegnare a un unico player, oltretutto non statunitense, una licenza di questa importanza, quindi in questo è un accordo, se vogliamo, epocale, e oltre al fatto che appunto è su scala mondiale e pluriennale. È in grado di dirci quali saranno le figurine o le trading card più richieste? Ma se ci fermiamo al mercato italiano, riteniamo che ovviamente le figurine e le card dei nostri giocatori che si stanno facendo valere nell'NBA, quindi Bargnani, Bellinelli e Gallinari, saranno probabilmente le più richieste. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Il rabbinato di Israele rompe i rapporti con il Vaticano, difficile proseguire il dialogo, è scritto in una lettera, se non vi sarà un atto di pubbliche scuse di ritrattazione sulle dichiarazioni sulla Shoah del vescovo lefebvriano Richard Williamson. Il Papa esprime solidarietà al popolo ebraico e così si rivolge ai lefebvriani. Auspico che a questo mio gesto faccia seguito il sollecito impegno da parte loro di compiere gli ulteriori passi necessari per realizzare la piena comunione con la Chiesa, testimoniando così vera fedeltà e vero riconoscimento del Magistero e dell'autorità del Papa e del Concilio Vaticano II. Di Pietro attacca il Presidente della Repubblica. Il suo giudizio, dice il leader dell'Italia dei Valori, a Napolitano, ci appare poco da arbitro. Il silenzio uccide, aggiunge Di Pietro, il silenzio è mafioso, quindi io non taccio. Applausi dalla piazza dove si stava svolgendo la manifestazione organizzata dalle vittime della mafia. Dopo la mano tesa di Barack Obama all'Iran, replica il presidente italiano Mahmoud Ahmadinejad ed è una risposta dura. Chiede il ritiro di tutte le truppe all'estero e di smettere di sostenere Israele. Il caso Englaro, via libera del distretto sanitario di Udine alla domanda presentata dalla famiglia per il ricovero di Eluana in una delle strutture di sua competenza. Ad accoglierla si era dichiarata disponibile la clinica La Quiete. Sul tema è intervenuto oggi anche il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick. Ho parlato di risposta tecnica. Ma vorrei essere chiaro sul punto. L'auspicio è, se mi è consentito, ovviamente che simili tematiche, proprio perché coessenziali alla visione dei diritti fondamentali, non restino aspetti solo incidentalmente sfiorati dalla Corte, ma formino oggetto di chiare opzioni legislative. Avrebbe confessato uno dei quattro rumeni arrestati per lo stupro di una ragazza a Guidonia la settimana scorsa. La convalida dei fermi dovrebbe avvenire domani o dopodomani. Nel pomeriggio il vertice sul settore auto a Palazzo Chigi per mettere a punto un piano di aiuti. Si parla di ecoincentivi e di provvedimenti per alleggerire le rate per l'acquisto di una macchina. Intanto le banche starebbero studiando un maxi prestito per Fiat, lo conferma l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera, anche se non vengono fatte le cifre. Maxi operazione contro i falsari, quattro laboratori clandestini che stampavano banconote, monete, marche da bollo, fasulli sono stati scoperti dai carabinieri in Calabria, una cinquantina gli arresti, 1.240.000 gli euro fasulli trovati. È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale l'attaccante del Manchester City, Robinho. L'aggressione sarebbe avvenuta 2 settimane fa in una discoteca di Leeds. Lui nega ogni addebito. Sono molte, di diverso genere e anche di diverse cifre, le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore sul piano che il governo starebbe approntando per il settore auto. Oggi pomeriggio, comunque lo ricordiamo, il tavolo sul settore, quindi un pochino di chiarezza si dovrebbe fare. E tu dicevi, Simone, le cifre sono tante, infatti oscillano fra i 300 milioni di euro e il 1.200 milioni. Quello sul quale concordano tutte le fonti è che verranno varati degli ecoincentivi dai 1.000 ai 2.000 euro per il passaggio ad un'auto ecologica. Ma si parla anche di interventi per ridurre le rate in caso di acquisto appunto di un'automobile. Giuseppe Volpato, buongiorno. Buongiorno a lei. Giuseppe Volpato è professore di economia e gestione delle imprese all'Università Ca' Foscari di Venezia, ma soprattutto autore di molti libri sulla Fiat, ultimo dei quali Fiat Group, un'araba fenice nell'industria automobilistica internazionale. Mi corregga se sbaglio, è questo l'ultimo, professore? Sì, questo è l'ultimo. Allora, professore, si parla di queste cifre, 300 milioni dicono alcuni, 1 miliardo e 200 milioni dicono altri. Vorremmo da lei una parola, ci può dare una dimensione di quel che servirebbe davvero per rilanciare l'industria automobilistica in questa fase di crisi? Allora, dal mio punto di vista è importante l'incentivazione alla rottamazione, ma intanto si dovrebbe prevedere rottamazione a fronte di acquisto di una vettura nuova, ma anche a fronte di acquisto di una vettura usata, con rottamazione naturalmente di una vettura molto più usata, oltre gli 8, 9, 10 anni, perché questo favorirebbe anche le famiglie meno abbienti che hanno difficoltà a acquistare una vettura nuova che ha un costo dell'ordine di 9.000 euro o più. Questo è un aspetto. Circa l'ammontare della cifra, io trovo che è una discussione un po' vuota di significato, perché attraverso, come è stato dimostrato anche da una serie di studi che ha fatto anche il Centro Studi Promotor, l'incentivazione alla rottamazione ha un effetto positivo in termini fiscali, perché ogni vettura nuova acquistata ha una sua componente di IVA e ha una componente di attività economica sul tuo sistema economico che poi si traduce in afflussi, in entrate da parte del fisco. Quindi parlare di una spesa di 300 milioni di euro, come dice qualcuno, o di 1 miliardo, in realtà quello che si dovrebbe calcolare semmai sarebbe la differenza fra l'esborso iniziale e poi quello che rientra in termini fiscali. Quindi io sarei a favore di iniziative molto più robuste, certamente sopra il miliardo. In ogni caso però, qui molto rapidamente, solo per nominare la questione, io sarei anche a favore di una politica che potenzi la motorizzazione a metano. Teniamo conto che tra il 2008 e il 2007 c'è stata una brusca caduta delle vendite, ma un incremento del 66% delle vetture che all'origine hanno la doppia alimentazione, benzina GPL e benzina metano. Basterebbe aumentare di un certo numero le stazioni di distribuzione del metano per dare grosso ossigeno all'industria automobilistica e alla produzione di componentistica per il metano. Siamo leader mondiali in questa tecnologia, non favorirla è una colossale sciocchezza. La ringraziamo, professore, grazie a Giuseppe Volpato, autore appunto di molti libri sulla Fiat, l'ultimo dei quali Fiat Group, un'araba fenice nell'industria automobilistica internazionale. Noi continuiamo a parlare di economia perché Confindustria ha presentato questa mattina il piano infrastrutture. Paola Nania, allora che cosa chiedono gli industriali al governo? Sì, fondamentalmente la posizione di Confindustria è che le infrastrutture sono un settore strategico non solo per affrontare la crisi ma anche per consolidare una crescita futura. Nonostante tutto è uno dei settori più in difficoltà al momento, con grave rischio per l'occupazione. La posizione di Confindustria è molto chiara, appunto l'hanno esposta oggi in conferenza stampa, chiara è l'insoddisfazione per quanto fatto finora dal governo, a partire dagli stanziamenti che secondo Confindustria sono insufficienti e a partire dal pacchetto anticrisi approvato ieri. Sentiamo la posizione della Presidente Emma Marcegaglia. Per quanto riguarda il 2009 non sono sufficienti, noi pensiamo che l'investimento infrastrutturale sia importante in sé perché l'Italia mantiene un gap infrastrutturale molto importante, ma in un momento di crisi come questa sono forse tra gli strumenti e i provvedimenti migliori proprio per dare una spinta anche alla domanda e avere una funzione anticiclica. La proposta che in realtà deve essere ancora presentata al governo ed è ancora molto abbozzata deve essere appunto discussa col governo e prevede da un lato la riforma strutturale del settore perché sia rilanciato, dall'altro la richiesta di 4-5 miliardi in più per avviare opere pubbliche immediatamente cantierabili, quindi per far ripartire il settore che dicevamo in profonda crisi. E per ora è tutto. Grazie Paola Nania, continuiamo a parlare di infrastrutture ma di un'altra infrastruttura al centro di grandissime polemiche nell'ultimo periodo, Malpensa. Eh sì, perché Lufthansa ha presentato questa mattina una parte del nuovo piano voli dallo scalo lombardo, presentazione che è stata seguita dalla nostra Anna Marino. Il 2 febbraio 2009, alle ore 6:15, decollerà il primo volo di linea Lufthansa Italia con destinazione Barcellona. 35 minuti dopo decollerà il volo verso Parigi e in futuro i passeggeri milanesi della Lombardia, gli italiani, avranno possibilità di scegliere tra 8 nuovi collegamenti diretti per l'Europa in partenza da Malpensa. Oltre a queste destinazioni ci saranno anche Bruxelles, Budapest, Bucarest e Madrid dall'inizio di marzo, mentre con l'introduzione dell'orario estivo a fine marzo saranno offerti anche collegamenti diretti per Londra, Heathrow e Lisbona. L'annuncio oggi di Lufthansa proprio a Milano Malpensa, dove poco fa con i nomi delle città di Milano e Varese sono stati battezzati i primi due aerei Airbus A319 nella configurazione da 138 posti di business ed economy class. Attualmente Lufthansa effettua 300 voli alla settimana, 680 milioni di euro sono stati i guadagni per le tratte Italia-Germania nel 2008, a questi voli se ne aggiungeranno altri 126. Da Lufthansa no comment per l'INATE e sicuro interesse per gli slot lasciati liberi dall'Italia e anche per la tratta Milano-Roma. Il numero uno di SEA Bonomi ha poi sottolineato che si tratta di una nuova compagnia con un nuovo brand e inoltre si dà vita a un rapporto di partnership con la compagnia tedesca in linea con il piano industriale della società degli aeroporti milanesi. Anna Marino, GR24, Il Sole 24 Ore. Da due giorni su Sky il primo canale televisivo dedicato solo alle donne, si chiama Lei. A febbraio non potrei guardare che lei. Si chiama Lei ed è on air da domenica. La nuova emittente televisiva tematica su Sky, canale 125, è voluta dal gruppo RCS Media Group. Si affianca al portale leiweb.it e ai periodici femminili del gruppo. Il responsabile della divisione multimedia di RCS Periodici, Gianluca Paladini. Ci siamo resi conto che chi dominava di fatto il prodotto televisivo era soprattutto la donna. Peraltro la cosa divertente è che tendenzialmente gli uomini comprano l'abbonamento a Sky e le donne lo guardano. La programmazione di lei è interamente dedicata alle donne mature, over 40, che lavorano, badano alla famiglia, ai loro impegni sociali e alla loro quotidianità attraverso varie fiction del panorama internazionale, sulle quali spicca la premiatissima serie 30 Rock, ma anche con spettacoli dal vivo come il talk show intitolato Protagoniste, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Appassionate, coinvolte, affascinanti, autentiche, intelligenti, libere, disinvolte, divertenti e sempre protagoniste. Sotto sotto c'è lei. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Di Pietro attacca il Presidente della Repubblica, il suo giudizio, dice il leader dell'Italia dei Valori a Giorgio Napolitano, ci appare poco da arbitro, espressioni pretestuose ed offensive, replica il Quirinale. La critica non travalichi il rispetto per il Presidente, dice Fini. Il rabbinato di Israele rompe i rapporti con il Vaticano, difficile proseguire il dialogo, è scritto in una lettera, se non vi sarà un atto di pubbliche scuse, di ritrattazione sulle dichiarazioni sulla Shoah del vescovo lefevriano Richard Williamson. Il Papa esprime solidarietà al popolo ebraico. Auspico che la memoria della Shoah induca l'umanità a riflettere sulla imprevedibile potenza del male quando conquista il cuore dell'uomo. La Shoah sia per tutti monito contro l'oblio, contro la negazione o il riduzionismo. Dopo la mano tesa di Barack Obama all'Iran, replica il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. La risposta è dura, chiede il ritiro di tutte le truppe americane all'estero e chiede all'America di smettere di sostenere Israele. Il caso Englaro, via libera del distretto sanitario di Udine alla domanda presentata dalla famiglia per il ricovero di Eluana in una delle strutture di sua competenza. Ad accoglierla si era dichiarata disponibile la clinica La Quiete. Il presidente della Corte Costituzionale Flick chiede leggi chiare. Avrebbe confessato uno dei quattro rumeni stati per lo stupro di una ragazza a Guidonia la settimana scorsa. La convalida dei fermi dovrebbe avvenire domani o dopodomani e c'è chi lancia l'idea di sospendere il trattato di Schengen, quello che permette la libera circolazione degli individui. Il ministro degli esteri, Franco Frattini. La Romania è un paese ormai dell'Unione Europea con cui dobbiamo e possiamo collaborare, ad esempio, affinché questi criminali tornino a scontare la pena nel loro paese. Oggi vertice sul settore auto a Palazzo Chigi per mettere a punto un piano di aiuti. Si parla di ecoincentivi e di provvedimenti per alleggerire le rate per l'acquisto di una macchina. Nel settore dell'edilizia ci sono 250.000 posti di lavoro a rischio nei prossimi 6 mesi. La stima è di Confindustria. È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale l'attaccante del Manchester City, Robinho. L'aggressione sarebbe avvenuta 2 settimane fa in una discoteca di Leeds. Lui nega ogni addebito. Come già sentivate nelle nostre notizie, in breve, gli ultimi casi di violenza sessuale stanno sollevando polemiche politiche, in particolare l'aggressione alla coppia di Guidonia. Per lo stupro della ragazza sono in carcere da ieri 4 romeni, altri 2 connazionali sono accusati di favoreggiamento, 1 dei 4 a quanto pare avrebbe confessato. E in questo clima di tensione, lo ricordiamo anche ieri, davanti alla caserma dei carabinieri a Guidonia ci sono state manifestazioni di protesta piuttosto intense, quasi un linciaggio da parte della popolazione nei confronti appunto degli arrestati. C'è chi, come per esempio il giornalista Mario Cervi sulle pagine del Giornale di oggi, lancia l'idea di sospendere il trattato di Schengen, quello per intenderci che permette la libera circolazione degli individui. A 24 mattino Alessandro Milano ha intervistato il ministro degli esteri, Franco Frattini. Io sono stato in Europa il responsabile dell'allargamento di Schengen e credo di aver fatto bene. Schengen vuol dire che ciascuno di noi, persone per bene, può circolare senza mostrare il passaporto da Roma fino a Helsinki e credo che questa sia una grande libertà a cui non si deve rinunciare. Dobbiamo accompagnare delle misure di contrasto ai criminali. Io non credo che si debba sospendere Schengen, credo che si debba fare di più. Io non direi che sono i criminali tra virgolette romeni. I criminali sono criminali sempre, da qualsiasi paese essi provengano. Ci sono dati statistici e chiaramente i dati sono dati. La comunità romena è quella dalla quale purtroppo viene una gran parte di coloro che commettono reati in Italia. Poi vi sono persone che vengono da altri paesi, ma la Romania è un paese ormai dell'Unione Europea con cui dobbiamo e possiamo collaborare, ad esempio, affinché questi criminali tornino a scontare la pena nel loro paese. Questo bisogna dire. Credo che la Romania debba accettare, essendo paese europeo, che un criminale arrestato che deve scontare una pena, quando la pena viene comminata, la sconta nel carcere del suo paese, in questo caso. Questo, a mio avviso, sarebbe la vera solidarietà europea su cui noi vogliamo lavorare, senza puntare il dito contro nessuno. E gli stupri delle ultime settimane fanno sollevare anche un'altra questione. Ci sono in Italia servizi idonei per accogliere le donne che hanno subito violenza? E quali sono anche le prime difficoltà proprio che si devono affrontare quando una donna arriva al pronto soccorso dopo uno stupro? Ne abbiamo parlato con Nadia Muscialini, che è psicologa del Soccorso Rosa dell'Ospedale San Carlo di Milano e coordinatrice di uno sportello antiviolenza che si può trovare su internet all'indirizzo www.sportelloantiviolenza.org. Sentiamola. Diciamo che le difficoltà sono complessissime e la più grande sicuramente è quella di uscire dalla violenza, quindi di capire a chi rivolgersi e come fare ad uscire dalla violenza, rendersi conto quindi di essere vittima e poi affrontare un processo di autonomizzazione, non solo dalla persona che le ha maltrattate, ritrovare l'autonomia psicologica, economica e ricostruire una serie di relazioni sociali e lavorative perse. Spesso si dice che una donna che ha subito violenza è un po' abbandonata dalle istituzioni, dal primo momento in cui arriva appunto in un pronto soccorso, per poi non parlare del processo e quindi della denuncia. Secondo la sua esperienza, le cose stanno migliorando o no? Diciamo che è vero che le donne fanno fatica a trovare degli interlocutori che possano dare delle risposte alle loro domande, però sempre di più si stanno aprendo la possibilità che il personale dei pronti soccorsi o di altri istituti possano avere dei riferimenti dove mandare le donne. In questi giorni si sta parlando molto di stupri in seguito ai fatti di cronaca e anche alle polemiche politiche. Sempre in base alla sua esperienza, i casi di violenza sessuale stanno aumentando o è un effetto mediatico? Noi vediamo più o meno sempre gli stessi, cioè per cui ci sono sempre stati e come ci sono adesso. Probabilmente se ne parla molto. Si parla forse di più di quel fenomeno che era occulto e che invece adesso per fortuna se ne parla molto di più, che è quello della violenza all'interno delle mura domestiche, che è sicuramente il fenomeno più diffuso rispetto alla violenza per strada. E per fortuna si inizia a parlare molto di più di questo genere di violenza. Ed è stato arrestato questa notte il calciatore del Manchester City, Robinho, proprio con l'accusa di violenza sessuale. Fabio Tavelli, buongiorno, è così? Buongiorno. Buongiorno, sì, è così, l'accusa è molto grave. Violenza sessuale sarebbe accaduto il fatto il 14 gennaio in un nightclub a Leeds. Coinvolge Robinho, che è un giocatore brasiliano del Manchester City. Manchester City che ha cercato fino alla scorsa settimana di prendere Kakà e aveva preso dal Real Madrid Robinho nella scorsa stagione. Robinho aveva abbandonato il raduno di Tenerife durante la scorsa quindicina di giorni, ma adducendo motivi familiari. In realtà poi si è abbastanza scoperto che erano questi i motivi per cui Robinho aveva lasciato il raduno della squadra e aveva preso anche una multa abbastanza corposa. I fatti naturalmente adesso andranno verificati da un giudice, perché Robinho è stato immediatamente scarcerato su cauzione e paradossalmente questa sera giocherà, infatti giocherà nella partita che il Manchester City affronta contro il Newcastle. È una vicenda che ha contorni ancora oscuri. In questo periodo stanno accadendo molti fatti di cronaca relativi ai giocatori inglesi. Il penultimo, ecco, tra l'altro, Fabio, appunto, non è certo l'ultimo, l'unico caso di violenza di cui sono accusati appunto gli sportivi. No, questo no. In realtà il penultimo fatto eclatante aveva riguardato Steven Gerrard, che era stato accusato di rissa aggravata e rischia 5 anni di carcere. Però il riferimento tuo è certamente a quello che accadde due Natali fa durante un party organizzato dai giocatori del Manchester United. Era un party privato nel quale con tutta probabilità gli organizzatori, cioè i giocatori stessi, avevano anche assoldato delle entreneuse per, come dire, allietare anche la seconda parte della serata, ne venne fuori un'accusa di violenza sessuale nei confronti di uno dei giocatori più giovani, Evans, che poi è stato completamente scagionato. Devo anche dirvi che sia in Premier League che nell'NBA gira quasi negli spogliatoi il decalogo che i giocatori più anziani consegnano ai giocatori più giovani su come comportarsi nei confronti delle avance delle tifose. In molti hanno il sospetto che ci sia anche qualcuno che possa sfruttare la popolarità e anche la disponibilità di portafoglio dei calciatori per incastrarli in vicende poco chiare, perché poi alla fine quasi sempre i calciatori ne sono usciti più o meno puliti. Grazie Fabio Tavelli, ti ritroviamo, se non erro, martedì prossimo in A Tempo di Sport per parlare di calcio estero ed europeo in particolare, così martedì, no? Alla prossima, okay. Sì, martedì pomeriggio con garanzia. Grazie Fabio. Radio 24 Day. E ora siamo alla 18ª edizione di Telefisco, il convegno annuale dell'Esperto Risponde organizzato dal Sole 24 Ore. Da questa mattina è possibile dal sito del Sole 24 Ore accedere al mega convegno via satellite dedicato al fisco. Si può assistere in streaming TV oppure si possono inviare le proprie domande agli esperti. 50 le città coinvolte, 300 le sedi dell'Agenzia delle Entrate messe a disposizione, 33.000 i professionisti, 24.000 i commercialisti che rispondono alle domande dei contribuenti. Fino a questa mattina 5.000 sono stati i contatti, sia attraverso il sito sia in modalità telefonino. Tanti gli argomenti toccati, a partire dalle ultime novità per il fisco che riguardano famiglia e imprese, novità che derivano dal decreto anticrisi approvato ieri in modo definitivo. Oggi Sole 24 Ore ha pubblicato la prima parte del testo integrale, domani in edicola ci sarà la seconda parte con i risultati del telefisco andato in onda oggi. Quindi le domande più frequenti e le risposte date dagli esperti, risposte che vi abbiamo fatto sentire e vi faremo sentire ancora nel corso della giornata a Radio 24. Alessio Maurizi, GR24, il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Di Pietro attacca il Presidente della Repubblica. Il suo giudizio, dice il leader dell'Italia dei Valori a Giorgio Napolitano, ci appare poco da arbitro. Espressioni pretestuose ed offensive, replica il Quirinale. La critica non travalica il rispetto per il Presidente, dice Fini. Il Rabbinato di Israele rompe i rapporti con il Vaticano. Difficile proseguire il dialogo, è scritto in una lettera, se non vi sarà un atto di pubbliche scuse sulle dichiarazioni negazioniste del Vescovo Lefebvriano Williamson. Il Papa esprime solidarietà al popolo ebraico. Oggi vertice sul settore auto a Palazzo Chigi per mettere a punto un piano di aiuti, si parla di eco-incentivi e di provvedimenti per alleggerire le rate d'acquisto di una macchina. Intanto Confindustria stima che nel settore dell'edilizia ci sono 250.000 posti di lavoro a rischio nei prossimi 6 mesi. Dopo la mano tesa di Barack Obama all'Iran, replica il presidente iraniano Ahmadinejad, chiede il ritiro di tutte le truppe americane all'estero e chiede agli Stati Uniti di smettere di sostenere Israele. Il caso Englaro, via libera del distretto sanitario di Udine alla domanda presentata dalla famiglia per il ricovero di Eluana in una delle strutture di sua competenza. Ad accoglierla si era dichiarata disponibile la clinica Acquieta. Il presidente della Corte Costituzionale Flick chiede leggi chiare. Avrebbe confessato uno dei 4 rumeni arrestati per lo stupro di una ragazza a Guidonia la settimana scorsa. La convalida dei fermi dovrebbe avvenire domani o dopodomani. E siamo alla polemica politica di queste ultime ore, ed è quella che riguarda Antonio Di Pietro. Questa mattina un attacco al Presidente della Repubblica, poco fa la replica del Quirinale. In diretta Andrea Viali, quali sono gli aggiornamenti, quali sono le notizie? Sì Simone, un migliaio di persone sta partecipando in questo momento a Roma, Piazza Farnese, alla manifestazione dell'Italia dei Valori contro la riforma della giustizia a cui lavora la maggioranza, e questa mattina nel corso di questa manifestazione sono partiti fischi e contestazioni contro il Presidente della Repubblica Napolitano, in particolare quando è stato rimosso uno striscione sul quale c'era scritto Napolitano dorme, l'Italia insorge. A quel punto dal palco anche il leader dell'Italia dei Valori Di Pietro si è rivolto al Capo dello Stato. Di Pietro ha detto: a volte il suo giudizio ci pare poco da arbitro, e tra gli applausi poi il leader dell'Italia dei Valori ha aggiunto: non siamo d'accordo che si lasci passare il lodo Alfano, il silenzio uccide, il silenzio è un comportamento mafioso, parole pesanti dunque, un duro attacco al quale poco fa ha replicato il Quirinale con una nota in cui si parla di accuse del tutto pretestuose e offensive nei confronti del Capo dello Stato. E sempre poco fa solidarietà a Napolitano è stata espressa alla Camera anche dal Presidente presidente Fini, presidente della Camera Fini, le critiche sono lecite, ma non bisogna mai travalicare il rispetto che si deve al presidente della Repubblica, ha detto Fini, parole accolte con un applauso da parte dell'Aula. Per il momento, Simone, è tutto. Grazie allora ad Andrea Viali. Noi adesso ci spostiamo in Svizzera, a Davos, dove si apre il vertice del World Economic Forum. Sentiamo quali sono le aspettative. Come far tornare la fiducia nei mercati internazionali? A Davos, al 39esimo World Economic Forum, si discute del ritorno della politica nell'economia. Il 70% dei partecipanti è contrario alle nazionalizzazioni delle banche, ma i governi stanno entrando nel capitale degli istituti di credito in difficoltà per garantire che i capitali arrivino all'economia reale. È un summit dominato dall'incertezza, quello di quest'anno. Spariti i protagonisti del passato come John Tane, ex CEO di Lynch, o Fuld di Lehman Brothers, tocca al primo ministro cinese Wen Jiabao o al premier russo Vladimir Putin con Angela Merkel e Gordon Brown trovare le risposte alla crisi. Tutti vogliono evitare il protezionismo e si chiedono chi sostituirà il consumatore americano indebitato. Forse ancora l'America, che potrebbe sostituire i consumi privati con quelli pubblici. Anche per questo Lawrence Summers, il consigliere economico del presidente Obama, e Timothy Geithner, il segretario tesoro USA, non sono venuti a Davos per la prima volta. Segno dei tempi, la crisi non aspetta. Vittorio D'Arold, GR24, Il Sole 24 Ore, Davos. C'è grande attesa dunque per il primo intervento del pomeriggio, che sarà quello di Vladimir Putin. Nel frattempo la sua Russia ha da ieri un nuovo patriarca. Sentiamo chi è. Il Vaticano ha accolto con grande speranza l'elezione di Kirill, da ieri sera patriarca di Mosca e di tutte le Russie. Una nota del Consiglio Pontificio per la promozione dell'unità dei cristiani auspica di poter continuare il cammino comune di riavvicinamento con gli ortodossi. Una strada difficile che per volontà del patriarca precedente, Alexei II, non aveva portato a un incontro con Papa Benedetto XVI. Kirill, forse non un riformatore sul fronte della dottrina, ha però svolto attività ecumenica, ha incontrato il Papa 2 anni fa. Tra i candidati che aspiravano a guidare la Chiesa ortodossa era la speranza migliore nel senso di un'apertura al mondo cattolico. Ieri sera, dopo l'annuncio della sua elezione, Kirill, 62 anni, è tornato ad attaccare il proselitismo di cattolici e protestanti, ma ha anche lanciato un segnale, dicendosi pronto a continuare il dialogo con le confessioni non ortodosse più sane. Antonella Scotte, GR24, Sole 24 Ore, Mosca. E mentre la Russia festeggia dunque la nomina del nuovo metropolita, la spedizione italiana Oltre prosegue il suo viaggio in fuoristrada verso lo stretto di Bering, lungo le piste della Russia del Nord, in vista ormai degli Urali, confine naturale fra Europa e Asia, dopo aver assaggiato temperature inferiori a 30 gradi sotto zero, appunto. Abbiamo fatto il punto con il vice capo spedizione Gianni Maccagni. Quando siamo arrivati abbiamo trovato la sorpresa di paludi praticamente non ghiacciate, con acqua a vista, con autobotti che buttano acqua la notte per far ghiacciare, per permettere il transito. Questa situazione ci ha subito lanciato dei segnali di allarme per il nostro proseguo, perché la temperatura, ti conferma che in questo momento siamo a meno 6, che a queste latitudini fa caldo per intenderci, e non avrebbe la possibilità di avere sufficiente ghiaccio per permetterne il transito, e quel passaggio, quel taglio permette di risparmiare parecchi chilometri nel collegamento tra Kangas e Mesin. Il problema è che la nostra rotta, che puntava direttamente a est, prevede il passaggio di questo fiume, un fiume con una portata d'acqua veramente consistente, che non è assolutamente ghiacciato. Purtroppo per noi siamo soltanto a meno 6 e questo è un grossissimo problema. Intendiamo raggiungere Narian-Mara o saltare direttamente a Salekard. Proprio in questi momenti stiamo decidendo quale delle due alternative, in considerazione anche dei tempi, perché dobbiamo pensare al nostro momento di arrivo a Wellen finale, che non può essere oltre una certa data. Potete inviare le vostre domande alla spedizione Oltre e vedere filmati e immagini su www.ilsole24ore.com e su www.radio24.it nella sezione Il Sole va Oltre. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Il prossimo GR alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13.